E da Alessandro Schirano, da Roberta Frisani in regia, da Gigi Donelli al microfono. Oggi parliamo in questi 20 minuti di due corse che sono davvero nel pieno, nel cuore della loro azione. Da una parte quella sanitaria, naturalmente, per la cura, ma anche per la creazione. L'obiettivo di fatto di lungo termine è quella della creazione di un vaccino, e immediatamente invece la corsa per trovare gli strumenti più adatti a sostenere le economie europee in questa fase drammatica. Come sapete, è in corso una trattativa, un braccio di ferro, uno scontro, chiamatelo come vi pare, ma ha già una data dove tutto questo deve in qualche modo deve atterrare, ed è martedì prossimo, quindi martedì 7 aprile. L'Eurogruppo, all'interno del quale si attendono le misure che dovranno essere di fatto composte, e che contemplano misure di finanziamento, misure di sostegno per le crisi occupazionali e di fatto anche una scelta politica. Sapete bene, credo, gli ascoltatori di Radio 24, che c'è lo scontro, si parla delle divisioni tra il nord e il sud dell'Europa, la paura che questa crisi possa diventare una scusa per di fatto indebolire e aggravare il debito, e dunque indebolire collettivamente l'euro. Tutto questo è in corso. Partirei dunque da una voce, che è quella del primo ministro italiano, del presidente del Consiglio Conte, a inizio settimana, quando a fronte di tutte queste situazioni di fatto rivolge un appello. Un'emergenza per cui non è responsabile nessun singolo paese. Non si tratta di tensioni finanziarie. Detto questo, l'Europa come risponde a tutto questo? L'Europa compete con la Cina, con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno stanziato 2.000 miliardi, pari al 9,3% del PIL, per reagire prontamente e uscire da questa emergenza. E in Europa cosa vogliamo fare? Ogni Stato membro vuole andare per conto suo? Se la reazione non sarà una reazione coesa, vigorosa, coordinata, l'Europa diventerà sempre meno competitiva anche nell'ambito dello spazio globale di mercato. Questo dunque accadeva ormai sembra che passino i giorni, qui il tempo corre davvero più veloce della norma. Primo aprile è una data altrimenti dedicata ad altre attività, era una faccenda molto seria. Dove deve andare l'Europa dunque? Verso quella dissoluzione causa egoismo, piuttosto che nel trovare una quadra? Ovviamente tra questi due estremi ci sono anche tutte le sfumature. Di fatto la richiesta di solidarietà dell'Italia si diffonde, ha eco immediatamente nello spazio europeo, non solo. Chiaramente destinatario privilegiato alla Germania, quindi dopo l'intervento di Conte sulla rete nazionale ARD, accompagnato dall'annuncio manifesto sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, l'invito alla collaborazione economica viene ripresa anche dalla Bild, quotidiano a grande tiratura, di inclinazione conservatrice, che apre con una sorta di variazione sul tema delle famose frasi berlinesi di Kennedy, e dice sostanzialmente: siamo con voi, noi siamo con voi. Ora, definito questa volontà collettiva da parte di un gran numero, vi ho citato uno, ma davvero lo spazio anche dei giornali, della stampa europea, era piena di queste considerazioni, e ovviamente sottolineiamo solo quelle che apparentemente sono più difficili da conquistare. Ma da una parte c'è questo, dall'altra invece c'è la trattativa. Allora voglio condividere il servizio, l'abbiamo mandato in onda questa mattina, Sergio Nava fa il punto su quella che è la trattativa di fatto alle 7 di questa mattina. A sole 72 ore dall'Eurogruppo, che dovrebbe fornire ai leader europei le ricette per fronteggiare la crisi, l'Unione resta divisa, per dirla con la vicepresidente della Commissione Vestager, tra nord e sud. L'ultima videoconferenza dei viceministri delle finanze ha nei fatti messo in coda a tutte le opzioni possibili il varo di Corona Bond, lasciando sul piatto l'opzione primaria delle linee di credito del meccanismo europeo di stabilità, declinato in due versioni: una linea per il sostegno contro la crisi pandemica e uno strumento di finanziamento rapido. I finanziamenti coprirebbero il versamento versante sanitario e quello della crisi economica, partendo da una base del 2% del PIL del paese o di complessivi 80 miliardi a seconda dello strumento. E sì, rimarrebbe anche la condizionalità del rispetto delle regole di bilancio europee, sebbene diluita probabilmente nel tempo. Questo mentre lancia l'allarme il ministro dell'economia francese Le Maire: o l'Europa agisce di fronte alla pandemia o non si risolleverà più. Servono decisioni, non chiacchiere. Il ministro delle finanze olandese Hoekstra ripete allo sfinimento il mantra del sì alla solidarietà ma no ai corona bond, mentre il vicepresidente della commissione Dombrovskis fiuta l'aria e svicola: ci sono altre opzioni oltre ai covid bond. Sullo sfondo resta l'appello lanciato dal premier Conte: l'Europa deve mostrare più coraggio, serve uno European Recovery Bond. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dicevo, questo era stamattina alle 7, perché poi le notizie davvero si inseguono. Allora basterà citare, leggere, l'abbiamo fatto stamattina, l'ha fatto Laura Bettini, la lettera del Presidente della Commissione Europea ad Avvenire, ovviamente Ursula von der Leyen, dice un nuovo piano Marshall per un'Europa solidale, dice per affrontare questa crisi non possiamo adoperare mezze misure, così sarà per gli anni a venire, eccetera eccetera. Parla di piano Marshall e aggiunge: i miliardi, le migliaia di miliardi spesi oggi per evitare una catastrofe peggiore sono un investimento nella nostra protezione futura e saranno vincolanti per le generazioni a venire. Insomma, tutto bene, almeno apparentemente. Continua la distanza e la divisione sui mezzi per arrivare a questo risultato, tanto che circa due ore fa viene, come dire, si fa spazio anche alla presa di posizione del commissario europeo all'economia Gentiloni, ex premier ovviamente nel nostro paese, ma che dice molto esplicitamente, dunque dal corpo di fatto dell'istituzione europea, dice: per sostenere la ripresa servono bond comuni emessi per uno specifico scopo e come misura una tantum. La trattativa avanza. Allora, noi abbiamo chiesto a Massimo Gaudina, che è rappresentante della Commissione Europea per il Nord Italia, se di fatto siamo comunque in una settimana che cambierà la storia dell'Unione. Ma guardi, è sicuramente una settimana importante, però io vorrei ricordare che già nella seconda e terza settimana di crisi c'è stato un primo pacchetto di misure molto importanti, direi quasi rivoluzionarie, perché la sospensione del patto di stabilità e l'autorizzazione agli aiuti di Stato sono stati due provvedimenti che in tempi normali sarebbero stati impensabili e invece sono stati emanati in emergenza e stanno già producendo i loro frutti, perché anche l'Italia, come gli altri paesi, stanno aiutando le imprese, aiutando i lavoratori, aiutando il settore medico e sanitario, anche grazie a questi due provvedimenti che hanno aperto le porte a tantissime opportunità. Quindi non è il giorno o la settimana zero, diciamo, della risposta europea. La risposta europea è cominciata subito sul campo sanitario con il lavoro dell'Agenzia Europea per la gestione delle malattie, con gli appalti congiunti europei che sono partiti, con il riutilizzo dei fondi strutturali. Noi sappiamo che ci sono 40 miliardi di euro di fondi strutturali che sono stati riorientati verso l'emergenza. Quindi c'è già stato molto, magari non è stato comunicato abbastanza, non è abbastanza visibile, ma c'è già stato moltissimo. E poi in questa settimana ci sono state delle novità, in effetti. Novità che devono evidentemente ancora completare e manifestarsi sicuramente entro martedì, perché comunque non arrivare ad una risposta, che ovviamente auspichiamo importante, forte, chiara, sarebbe in sé un disastro. Ci scrivono anche ascoltatori che peraltro vedono in Europa una sorta di bersaglio di tutti i mali. Lo sappiamo, in una fase così tesa la retorica anche sull'anti-europeismo, sulle responsabilità, si gonfia, ma tant'è, la risposta va data e martedì è una scadenza. Allora, ancora con Massimo Gaudina, ci sono spazi, quali sono i margini di manovra che l'Unione Europea nel suo insieme può porre per sostenere una soluzione che dia soddisfazione alla richiesta italiana, che poi è quella di un paese leader all'interno di un gruppo di paesi che hanno preoccupazioni molto simili? Ma la trattativa è in corso e martedì appunto ci sarà l'Eurogruppo, quindi il lavoro e la discussione si svolge in quella sede. Come Commissione Europea la posizione è quella che siamo assolutamente aperti a tutte le soluzioni, tutte le opzioni sono valide, Tutte le opzioni dovranno essere un segno di solidarietà e di cooperazione forte tra tutti i paesi e dovranno dare una risposta comprensiva per tutti. Quindi lasciamo lavorare l'Eurogruppo e martedì ne sapremo di più. Quindi anche i Corona Bonds sono una delle opzioni possibili per la Commissione? Tutte le opzioni sono possibili, come dicevo. Quindi anche quella. La sfida ulteriore viene poi nel lungo periodo, perché stiamo parlando di misure di emergenza, stiamo parlando di tanti provvedimenti importanti, anche questa cassa integrazione europea che è stata lanciata 3 giorni fa, il SURE, sono tutti meccanismi, sono tutte azioni molto forti, molto importanti, ma siamo soltanto all'inizio. Quello che bisogna sottolineare è che ci sarà poi bisogno di un grande piano di investimenti per il futuro, per far partire la ripresa economica una volta che saremo usciti dalla crisi. E su questo vorrei ricordare che i 27 capi di Stato e di Governo all'ultimo Consiglio europeo non hanno soltanto parlato di MES o Corona Bond, ma hanno parlato anche di questo, e cioè hanno chiesto alla Commissione di cominciare a preparare un piano di uscita dalla crisi per coordinare tra i 27 paesi l'uscita dall'emergenza, e soprattutto di preparare un grande piano di investimenti per il futuro che dovrà dare la risposta di lungo periodo. E l'asse centrale, il perno di questa futura strategia, dovrà essere poi il futuro bilancio europeo 2021-2027, che ancora non c'è e che i paesi dovranno approvare il più presto possibile. E che sarà davvero un momento delicatissimo, probabilmente decisivo. Grazie a Massimo Gaudino, lo ricordo, rappresentante della Commissione UE per il Nord Italia. Ci risentiamo tra un istante. Europa, Europa. Prima di voltare pagina, il commento, una riflessione condivisa di Roberto Castaldi, professore associato in filosofia presso l'Università I Campus, affiliato alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. L'Europa, le sue contraddizioni, le contraddizioni che viviamo anche in questa drammatica crisi. Sentiamo. La crisi della pandemia è ricca di paradossi. Da un lato abbiamo l'impressione di avere di fronte stati nazionali molto forti, in grado di imporre quarantene e misure restrittive molto significative. Al contempo sono molto deboli. Pensiamo al riconoscimento del fatto che non si può superare la crisi senza strumenti europei per farlo. È una dichiarazione di impotenza, un riconoscimento dell'indispensabilità dell'Unione. E d'altronde anche la risposta degli stati nazionali è in realtà resa possibile dall'Unione Europea. Pensiamo alla sospensione del patto di stabilità che autorizza a fare debito nazionale, che è reso possibile dall'intervento della Banca Centrale Europea, che ha messo in campo 1.110 miliardi e ha tolto vincoli precedenti all'acquisto di titoli di Stato dei singoli Stati. Ecco quindi che anche paesi già molto indebitati come la Grecia o l'Italia oggi sono in grado di fare debito pubblico in maniera significativa per rispondere alla pandemia grazie alla Banca Centrale Europea, cioè grazie all'integrazione monetaria europea. In sostanza, noi ci accorgiamo che l'Europa ha già risposto in parte attraverso le sue istituzioni sovranazionali, la Commissione, la Banca Centrale. Chi non ha risposto sono i governi nazionali, perché la politica fiscale è rimasta una competenza nazionale. Non abbiamo un governo federale europeo, non abbiamo un tesoro europeo con tasse europee e debito pubblico europeo, e questo è il grande limite che dobbiamo superare per riuscire a rispondere in maniera efficace a questa crisi. Abbiamo bisogno di un governo federale, come chiede anche l'appello lanciato da molti intellettuali e firmato da tante personalità della cultura, della società civile, della politica, che potete trovare sul sito www.cesue.eu/appello. E adesso un'altra parte di questa emergenza, quella che riguarda la ricerca. Dunque, salvare le vite, farlo in fretta, ma anche profitti miliardari potenziali ci sono, questo nella ricerca della dello strumento, della medicina, della molecola che può essere risolutiva, e questo naturalmente tanto più sul fronte del vaccino. Sul fronte proprio del vaccino ci sono due paesi che sembrano essere più avanti, sono quelli che vengono portati a Seattle, uno dei test clinici in corso, 45 volontari sani, un gruppo al lavoro invece in Cina su 108 volontari, un lavoro che è iniziato di fatto immediatamente 65 giorni dopo che le autorità cinesi avevano sequenziato Covid-19. L'appello sul fronte sanitario vede anche l'Europa impegnata e punta a determinate un certo numero di obiettivi, di gruppi di ricerca. Sentiamo Ursula von der Leyen. L'Unione Europea contribuisce con una cifra fino a 80 milioni di euro. E spero che con questo sostegno possiamo avere un vaccino sul mercato forse prima dell'autunno. Ecco, un ottimismo quello di Ursula von der Leyen che viene ritenuto eccessivo da molti specialisti. Gli scienziati, gli specialisti del farmaco ritengono che la deadline autunnale è davvero troppo vicino. A questo proposito abbiamo sentito Jean-Luc Galla, esperto di pandemia all'Università di Lovagno. Lo sentiamo. Non mi sembra realistico. C'è una serie di questioni clinico-scientifiche che sorgono, e anche se avessimo tra le mani, dal punto di vista tecnologico, un vaccino in 2 o 3 mesi, è virtualmente impossibile soddisfare tutti i criteri di sicurezza ed efficienza in così poco tempo. I criteri di efficienza, di sicurezza implicano tutta una serie di test clinici, la nuova molecola va comunque attestata per quelli che definiamo gli effetti collaterali, deve essere valutata la capacità della molecola una volta identificata di coprire e proteggere il paziente, e cosa non secondaria, anche valutata la durata di questa protezione. Se si considera la media degli esperti coinvolti, si vede che di solito si ritiene un tempo minimo quello per arrivare ad un risultato, i 18 mesi. Allora, sempre su questo appunto specificità, cioè della costruzione degli strumenti di difesa, abbiamo sentito anche un altro epidemiologo, è Yves Coppetier della ULB di Bruxelles, tra quelli che mettono in guardia dal sacrificare importanti passaggi nei test farmacologici. Sentiamolo. Finché abbiamo a che fare con l'ignoto, per un principio etico non possiamo somministrare alla popolazione cure o vaccini dei quali non sono accertate l'efficacia o la gestione degli effetti collaterali. Mi sembra complicato da un punto di vista etico. Se i vaccini creano più danni della malattia o danneggiano il sistema più della malattia, le cose si fanno molto complicate. Si deve valutare il rapporto tra benefici e rischi. C'est toujours la balance benefici-rischi. L'europarlamentare tedesco Peter Lieser, membro del PPE, proveniente di fatto dallo stesso gruppo cristiano democratico da cui proviene la presidente von der Leyen, si dice a favore degli sforzi per il vaccino, ma insiste anche convintamente sul fatto che prima va messa a punto una strategia farmacologica per curare in questo caso gli effetti prodotti da Covid-19. Prima di un vaccino, dice, avremo un miglioramento nelle terapie. Vale la pena valutare medicinali esistenti che funzionano per altri virus, così come altri che probabilmente sono efficaci per curare il coronavirus. Col passare delle settimane, dice appunto Lise, impariamo sempre di più sul trattamento. La situazione migliorerà gradualmente ed ecco perché il contenimento è così importante, perché ogni settimana guadagnato abbiamo protocolli migliori per curare i pazienti. Peter Lise, in considerazione dell'assenza di terapie di provata efficacia, il ricorso ad altri farmaci presenti sul mercato è entrato a far parte del dibattito. Il professor Didier Raoult del Centro Mediterraneo di Infezioni di Marsiglia ha presentato i suoi studi sull'uso delle idrossiclorochine, antimalarici di fatto molto ben conosciuti dal mondo del farmaco, dai consumatori che hanno impiegato nel trattamento di diverse diverse forme reumatoidi. Insomma, utilizzare altri farmaci, anche questo naturalmente una questione delicata che richiede. A questo proposito vi segnalo che in particolare per le idrossiclorochine esistono una serie di indicazioni molto chiare su ESS, quindi sul nostro sistema sanitario, sul sito principale dell'Istituto Nazionale di Sanità. Ma il fatto di scegliere o meno delle molecole, scusate, ha delle implicazioni anche sull'acquisizione farmacologica delle molecole stesse, perché, come spiega ancora Peter Liese, il nostro è un continente fortemente dipendente da India e Cina. Allora sentiamolo. That is a general problem that we didn't look enough about our pharmaceutical industry. Ecco, Peter Liese dice: questo è un problema generale, non abbiamo abbastanza curato il nostro sistema di produzione del farmaco, e di fatto non è così attrattivo, così interessante produrre per il mercato dell'Unione Europea. E dunque è qualche cosa che dobbiamo, su cui lavorare, su cui dobbiamo fare dei grossi miglioramenti, ma di certo non è una cosa che potremo fare rapidamente. Oltre a questo, dobbiamo ricordare che molte compagnie farmaceutiche europee hanno spostato i laboratori di ricerca già negli Stati Uniti. Sentiamo infine allora Claire Dare, capo della Social Europe and Wellbeing Program, che ritiene che l'Europa venga posta proprio da questa pandemia di fronte a una scelta cruciale, ed è la seconda volta che ne parliamo oggi, la scelta della solidarietà. Ce qui va être essentiel et déterminant au niveau européen par rapport à la recherche et puis quello che sarà essenziale e decisivo a livello europeo in relazione alla ricerca e all'acquisto di vaccini è la solidarietà tra gli stati membri. La Commissione europea, dice Dare, dovrà giocare un ruolo importantissimo, un ruolo determinante, perché si tratterà di distribuire poi i risultati ottenuti da questo o da quel laboratorio, che sia italiano, tedesco, quel che sia, a tutti quanti. Ecco che torniamo ancora una volta oggi a parlare dunque di solidarietà, un ruolo importantissimo. È tutto, noi ci risentiamo in realtà tra qualche istante per gli aggiornamenti di GR24. È tutto tra pochissimo.